pensavo che la storia restasse unica, immutabile, ma non pensavo che se vuoi puoi cambiarla tu. La canzone che scrivo adesso è mia e userò tutta la mia fantasia.